Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi prende in esame un ricordo che si manifesta in quattro appuntamenti di qualità. Il ricordo è per Luigi Bernardi, figura più che poliedrica del fumetto ma anche della saggistica e del giallismo e anche della drammaturgia teatrale. È iniziato questa rassegna organizzata dallo stesso Associazione Luigi Bernardi a memoria di questo personaggio che, tra l'altro, ricordiamo, prese le sue mosse proprio della trasmissione qui a Radio Città e nell'allora trasmissione di fumetti Segnale di Fumo. Comunque si è cominciato il 14 di gennaio con Luigi Bernardi, l'impronta del Gagin. Si riprenderà il 3 febbraio con le bande dessinée satiriche degli anni 70-80, il suo adattamento in Italia, un discorso tra Volinsky e Bernardi. Il 3 marzo avremo il teatro di Luigi Bernardi alla Mediateca di San Lazzaro. Il 4 marzo, Senza luce e La conta, due monologhi di Luigi Bernardi stesso, e si chiuderà dopo l'estate, il 16 ottobre, con Luigi Bernardi, 40 anni di carriera in mostra virtuale. Per avere una panoramica complessiva, Morena Moretti ha raggiunto Marco Bernardi, figlio di Luigi Bernardi e portavoce della stessa associazione. Sentiamo, dopo lo stacchetto musicale, le sue spiegazioni. Marco Bernardi, per il 70° anniversario della nascita di Luigi Bernardi, la vostra associazione organizza una serie di eventi che si snoderanno nei prossimi mesi. Ce li puoi illustrare? Certo, allora noi abbiamo deciso di celebrare questo anniversario legato a Luigi Bernardi con una rassegna di eventi, abbiamo intitolato Luigi Bernardi l'impronta del Gaijin, che si declinerà su quattro principali eventi che si svolgeranno nel prossimo anno nella città metropolitana di Bologna. Il primo si parte direttamente con un primo evento dedicato all'impatto e l'impronta che mio padre ha lasciato nell'ambito della narrativa giallo noir. Si passa poi il 3 febbraio a Bologna all'Alliance Française in un evento dedicato alla bande dessinée, quindi al fumetto francese satirico degli anni 70 e 80 e l'impatto che mio padre ha avuto nella sua diffusione in Italia, anche legata alla figura del fumettista francese Georges Wolanski, a cui poi sarà dedicata una mostra di tavole originali che partirà il 3 febbraio e durerà un mese sempre all'Alliance Française. Il terzo evento è a San Lazzaro di Savena, sarà il 3 e 4 marzo e sarà una due giorni dedicata al teatro di Luigi Bernardi, quindi uno dei settori meno conosciuti della sua produzione. Il 3 marzo saremo alla Mediateca di San Lazzaro, dove ci sarà una tavola rotonda per presentare meglio quello che è stato appunto il lavoro di mio padre in questo ambito, e poi una lettura di un testo, I tempi stanno per cambiare, che lui scrisse a quattro mani col drammaturgo palermitano Rosario Palazzolo. Il giorno successivo saremo all'ITC di San Lazzaro, dove verranno messi in scena due monologhi scritti da mio padre, Senza luce e La conta, per la regia di Michele Collina. L'ultimo evento si passa direttamente a ottobre, il 16 ottobre, in Cappella Farnese a Bologna, e in questo caso presenteremo, sarà un piccolo convegno che presenterà un progetto di mostra virtuale, quindi un sito internet con varie stanze tematiche, un progetto che sta portando avanti l'Università di Bologna in collaborazione con l'Alliance Française e l'Accademia di Belle Arti, legato anche a una donazione che noi abbiamo fatto qualche anno fa di circa 7.000 volumi alla biblioteca Ezio Raimondi dell'Università di Bologna. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou glou glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tra le diverse iniziative dedicate a Luigi Bernardi spicca quella legata alla satira francese, la bande dessinée satirica degli anni 70-80, che parla di Boulinski e dei suoi rapporti con Bernardi. Ecco, di questo rapporto tra la satira francese e quella italiana e Bernardi prosegue la chiacchierata tra Morina Moretti e Marco Bernardi. Questo tipo di satira e che rapporti aveva con la Francia negli anni 70-80? Mio padre aveva, ancora prima di essere editore e traduttore di fumetto francese, era un grandissimo appassionato e lui da subito, anche attraverso canali molto diretti, riuscì a portare in Italia autori da noi non ancora conosciuti, ma che in Francia avevano già grande successo, e lo fece dalle sue prime esperienze, quindi già dal 77 nel supplemento a fumetti della Città Futura, il settimanale della Federazione Italiana dei Giovani Comunisti. Tra questi autori, uno di quelli che lo appassionava di più era Georges Wolanski, autore celebre anche per le sue collaborazioni con Charlie Hebdo, e nel 1990 mio padre diede alle stampe l'ultimo volume di Wolanski tuttora disponibile in Italia, Non ci sono più uomini, un satira molto feroce sui rapporti tra uomini e donne, probabilmente un libro che adesso non sarebbe più accettabile per molti punti di vista. Padre era anche amico di Wolanski, sfortunatamente Georges Wolanski è morto nel 2015 negli attentati di Charlie Hebdo. Ci piace ricordare quindi in questa occasione non solo mio padre e il suo rapporto con questo fumetto, ma anche questo grande autore che poi cui sarà dedicata una mostra di originali, da lui peraltro portati in Italia nel 1990 quando fu presentato questo volume proprio all'Alliance Française. Per la parte del teatro potrebbe essere interessante capire questo dedicarsi anche alla scrittura teatrale. Che cosa mi puoi dire? Dov'è l'originalità di Luigi? La sua idea parte da un lavoro che lui fece a cavallo alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000, che fu la produzione di due edizioni di quello che veniva chiamato il libro dei crimini, cioè un almanacco che registrava giornalmente i crimini compiuti in Italia. Quei due anni, diciamo, di analisi della cronaca gli fecero costruire tutta una serie di teorie su quello che era stata l'evoluzione anche della psicologia italiana legata ai fatti di crimine. Queste sue idee poi lui le digerì e rielaborò sfruttando anche diversi settori, diverse tipologie di prodotto culturale. Tra questi lui scelse la scrittura dei monologhi teatrali come una modalità per analizzare al meglio quella che è proprio l'evoluzione psicologica di una persona che sta compiendo un crimine. Tutti i monologhi che ha scritto, tra cui ne ha scritti una decina, i due che verranno messi in scena a l'ITC, sono persone che in quel momento stanno compiendo dei crimini, e il monologo teatrale, il testo del monologo, permette di analizzarne la psiche e andarne a comprendere per quanto possibile le motivazioni come poche altre cose. Quindi diciamo che lui vide in questa sua sfida di cercare di capire anche quello che pensavano questi nuovi criminali, che non sono più i criminali della criminalità organizzata ma sono criminali comuni nelle famiglie, come potevano anche capire le loro ragioni e cercare poi dal punto di vista della società di supportarli. Teresa, ti prego, non stare col fucile, per la rabbia la pupilla può scoppiare. Teresa, ti prego, sono certo un vilem, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, mi disse vieni a casa mia, cosa mai potevo far. Un bacio domandato, te lo giuro rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò Teresa, ti prego, non scattar col fucile, far così non è gentile ma lascia andare. te. Perciò Teresa, ti prego, non scattare col fucile, far così non è gentile, ma lascia andare. Teresa, no, non mi sparare. No, Teresa, no, non mi sparare. No, Teresa, ti prego, no. E dopo la commemorazione con diversi avvenimenti per Luigi Bernardi, torniamo invece a parlare di graphic novel, cercando di inquadrare degli esempi importanti di inchiesta giornalistica con le nuvolette. Alcuni di questi esempi importanti vengono presentati da Luca Baldazzi di Coconino Press, editore, e il fotografo Emmanuel Guibert, Didier Lefebvre, Federico Lemercier, che Coconino ha ripreso dall'edizione francese, che è un misto di arte fotografica e fumetti, un esperimento molto importante. La parola a Luca Baldazzi. Fotografo di Emmanuel Guibert, un fumettista francese, che il libro è del 2009-2010, è un libro che ha vinto molti premi, che è stato molto apprezzato dalla critica e porta tre firme in copertina. Emmanuel Guibert è l'autore dei fumetti, Didier Lefebvre è fotografo in questione, perché anche qui c'è l'autobiografia, e Frédéric Lemercier, co-impaginatore, che ha messo insieme di tutto, perché l'interesse di questo libro è che qui il fumetto incontra il fotogiornalismo. È interessante la storia che c'è dietro questo libro. Nel 1986 Didier Lefebvre, un fotografo freelance francese, viene invitato da Medici Senza Frontiere ad andare in Afghanistan, teatro allora di una guerra dei Mujahideen contro l'invasione sovietica. C'erano i russi dal 79 che avevano invaso l'Afghanistan. C'è la guerra, Medici Senza Frontiere va a costruire un ospedale da campo in una zona montuosa, abbastanza anche lontana dalla capitale Kabul, una zona che ha continui scontri appunto tra l'esercito russo e i Mujahideen afghani. Lefebvre va, ci passa 4 mesi, che sono raccontati poi in questo fumetto, ha varie avventure e disavventure, scatta delle foto impressionanti che trovate all'interno del libro, per crudezza e per bellezza. Quando torna in Francia, dopo 4 mesi, le porta a tutti i giornali, a tutti gli editori anche di riviste, ma di migliaia e migliaia di scatti. Solo il quotidiano Libération gli pubblica 6 fotografie in tutto. Della serie l'Afghanistan è lontano, non ci interessa tanto, e dire che una volta si diceva che all'estero c'era più attenzione verso la politica estera rispetto all'Italia. Sicuramente i quotidiani italiani dedicavano e dedicano pochissimo spazio agli esteri, in quel caso anche i francesi non furono lungimiranti. Allora cosa succede? Lui, deluso, accantona il progetto e aveva lì tutte queste foto e questi negativi in realtà, e continua a fare altre cose. Conosce Emmanuel Guibert, fumettista, autore di diverse opere, vincitore del Grand Prix di Angoulême, è sicuramente uno dei grandi, a nostro parere, ma in generale riconosciuto da tutti come un grande del fumetto francese, e si mettono a parlare di questa esperienza fatta da Lefebvre. Guibert vede le foto e dice: ma perché non ci facciamo un libro a fumetti? E il fumetto incontra l'immagine fotografica in modo molto intelligente, perché Guibert con Lefebvre crea un montaggio in cui le fotografie vengono usate come vignette nella tavola in sequenza. Quindi il fumetto cosa fa? Le vignette di fumetti raccontano i vuoti tra una fotografia e l'altra, cioè foto è esplicativa di per sé. Iber fa vedere i Medici Senza Frontiere che curano un guerriero ferito e poi nella foto successiva c'è l'esterno della tenda. Iber ci mette alcune vignette di passaggio in cui racconta cosa si sono detti i medici, insomma crea un flusso continuo tra immagine fotografica e immagine a fumetti. Un esperimento molto interessante che poi è stato ripreso da altri autori. La fotografia nel fumetto del resto non è che qui compare per la prima volta, però forse mai in modo così organico e per un reportage giornalistico che diventa veramente una bellissima testimonianza. Lefebvre nel raccontare questa storia si mette in scena perché lui racconta anche una serie di esperienze e di disavventure nel suo viaggio di ritorno, perché a un certo punto lui si intestardisce a voler andare a vedere un paese afghano dove aveva sentito che c'erano delle testimonianze interessanti, quindi lascia la spedizione, vuole proseguire da solo con alcune guide afghane. Finiscono in una tempesta di neve, questi se ne vanno, lo abbandonano e quindi c'è questo ritorno complicato e drammatico che lui racconta mettendosi in scena e raccontandosi in prima persona. Però nel libro emerge anche molto chiaramente quella che era la società afghana all'epoca, anche il problema ovviamente delle donne, però anche la fierezza di questi ribelli che si opponevano all'invasione sovietica. Sul graphic journalism, al di là di questi esempi che sono comunque delle pietre miliari del genere, ci sono stati anche dei casi molto più rari in cui proprio il giornalismo, cioè il giornale, ha utilizzato il fumetto per raccontare la cronaca. I fumetti ci sono sui giornali fin dalle origini, sotto forma di strisce, tavole domenicali sui quotidiani americani, ci sono supplementi, inserti con storie a fumetti, quindi non è che sia nuovo l'uso del fumetto sulla carta stampata, però molto raramente il fumetto viene usato per raccontare un fatto di cronaca proprio a fumetti. Un esempio che mi piace citare è questa piccola storia uscita sull'Unità nel 2005, marzo 2005, disegnata fra l'altro da un disegnatore dal suo studio bolognese, Giuseppe Palumbo, con Alessandro Tommaso Vitti e Michele Benevento, che furono chiamati dall'unità a fare un piccolo fumetto sull'uccisione di Nicola Calipari, il caso Pimento Giuliana Sgrena. Questo è interessante perché comincia con una vignetta in prima pagina, è un fumetto brevissimo, comincia con una vignetta in prima pagina e poi prosegue con poche vignette per la mezza pagina successiva. Lo scopo di questo fumetto è interessante perché ha a che fare con una delle caratteristiche specifiche del linguaggio. Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto, viene rapita da un gruppo terroristico, viene rilasciata e Nicola Calipari e un altro membro dei servizi segreti italiani la prendono in macchina e la portano in salvo, però incontrano un posto di blocco di soldati americani che sparano sull'auto e uccidono Calipari, feriscono la Sgrena, ovviamente fatto terribile e increscioso, incidente diplomatico internazionale. Gli americani danno una versione diversa dei fatti rispetto alle testimonianze raccolte in loco, almeno all'inizio. Qui siamo proprio nei giorni immediatamente successivi al fatto. Gli americani dicono che la macchina andava a folle velocità e che quindi i soldati del posto di blocco, non capendo bene da chi fossero e da dove venivano, non hanno rispettato l'auto e sono stati costretti a sparare. La verità che emerge piano piano è un po' diversa, cioè loro, essendo in zona di guerra, e viaggiavano con molta prudenza e molta attenzione, ma l'inesperienza dei soldati che erano al posto di blocco ha fatto sì che succedesse il fatto. Allora, in discussione c'erano due versioni contrapposte del fatto e quindi quello che era in discussione era la sequenza degli avvenimenti. Ora, la sequenza è un elemento fondante del linguaggio del fumetto, cioè quando si definisce il fumetto ci sono tante definizioni, anche controverse, discussioni tra i critici, fra gli esperti, però una delle cose su cui tutti sono d'accordo è che il fumetto è un linguaggio fatto di parole e di immagini in sequenza, perché ovviamente l'immagine unica è l'illustrazione. Se quella che si chiama tavola mettiamo una serie di immagini in sequenza, è un fumetto. Mi piace citare questo esempio di graphic journalism perché là dove è importante ricostruire una sequenza di fatti, cioè cosa è successo prima, Giuliana Sgrena è stata liberata, sono arrivati gli 007 italiani, sono saliti in macchina, in quel momento non c'era nessuno, sono andati verso il posto di blocco. Ecco, questo fumetto in poche vignette di Giuseppe Palumbo e degli altri collaboratori del suo studio ricostruisce questa vicenda e questa sequenza a sostegno chiaramente della tesi italiana che non si è trattato di un incidente ma insomma non provocato dalla povera vittima in questione. I'll do just enough to support you after this. In a tazi do ti, e darbi hiro ti, fale ta kyo. أول أمس الملكوت وخلتني أطوى بشريتي فلا فلحتي والشجوى السبابتي والجوى ووجد الفوادي إن هي إلا ضلال النور ha berni bi karbi wa khay bayti baydan anna musaka kay fala hasdu azman fala tahju لأن سفى جنان في معبدك أو نغماتي توحدي ترب فرحتي إن هي إلا بلاد Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.